Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Distanza fino a 2 metri, mascherine, posti alternati negli aerei, sia passeggiate, parchi per i bambini, le ipotesi per la fase 2, la decisione arriva entro il fine settimana. E per lo sport, Spadafora promette riaprire prima gli allenamenti e poi i campionati, ma in modo graduale. Prestiti alle aziende, l'ABI striglia il governo e chiede semplificare le procedure per le garanzie. Ostia, beni per 18 milioni di euro derivati da usura, droga e estorsioni confiscati al clan degli Spada. Il 2019 è stato l'anno più caldo di sempre in Europa, oggi giornata mondiale della Terra, il Papa, pianeta depredato, a rischio la nostra vita. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Cominciamo naturalmente con l'emergenza coronavirus. Ieri il Presidente del Consiglio Conte ha chiarito nell'informativa alcuni aspetti di quelli che saranno la fase 2 con la riapertura di una serie di attività commerciali e industriali. Le linee guida della Task Force guidata da Vittorio Colao sono già state consegnate e su tempi e modi della ripartenza è attesa oggi una riunione della cabina di regia tra governo e regioni. In mattinata il manager Vittorio Colao ha illustrato al Premier Conte i punti del documento ultimato ieri sera dalla Task Force per la fase 2, un piano omogeneo per tutta Italia con le modalità per un riavvio delle attività produttive a partire dal 4 maggio che dovrebbe riguardare quasi 3 milioni di lavoratori, atteso anche un allentamento delle regole che hanno tenuto a casa milioni di italiani. Norme più restrittive saranno possibili nelle zone dove i contagi dovessero tornare a crescere. Sui contenuti del piano c'è ancora massimo riserbo. Conte ha fatto sapere che saranno comunicati in settimana dopo un confronto con parti sociali ed enti locali. Per le attività produttive si parla di misure di sicurezza nei luoghi di lavoro e una forte spinta allo smart working, più complesso il quadro del trasporto pubblico. Oltre al distanziamento all'interno dei mezzi, si pensa anche di allungare gli orari di uffici e negozi per evitare affollamenti nelle ore di punta. Quanto agli spostamenti, si andrebbe verso un via libera alla possibilità di andare nelle seconde case, nei parchi o a correre anche lontano da casa. Uso delle mascherine e distanziamento sociale dovrebbero restare fino a quando non ci sarà una cura o un vaccino. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Saremo dunque a vedere, continueremo a parlarne anche nel resto di Effetto Giorno della fase 2. Adesso invece parliamo degli aspetti economici dell'emergenza coronavirus, perché il decreto Cura Italia con le prime misure economiche, gli ammortizzatori sociali, è alla Camera oggi dopo il passaggio al Senato. Sempre oggi in serata è atteso il Consiglio dei Ministri sul decreto aprile. L'allarme sul calo del PIL meno 15% spinge il governo ad affrettare il decreto aprile. Il Consiglio dei Ministri si riunisce stasera per il varo del DEF, il documento di economia e finanze, per la lettera al Parlamento sullo scostamento di bilancio. Soltanto dopo sarà possibile approvare le nuove misure che, come annunciato dal Premier Giuseppe Conte, prevedono altri 50 miliardi per famiglie e imprese. Nel nuovo decreto, bonus di 800 euro delle partite IVA, bonus affitti per attività commerciali di imprese e professionali, norme di garanzia o moratoria di rate per i risparmiatori o consumatori che hanno fatto ricorso al credito, bonus di 500 euro per i lavoratori senza reddito fisso come precario stagionale o chi ha finito il sussidio di disoccupazione, bonus per i figli fino a 14 anni, proroga della cassa integrazione per lavoratori domestici in regola come colf e badanti con un bonus tra i 200 e i 400 euro. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. La questione dei prestiti alle aziende in difficoltà, ora a chiedere procedure più semplici e veloci per famiglie e imprese, è il direttore generale dell'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, Giovanni Sabatini, in audizione. Una procedura facilitata senza valutazione del merito di credito per le garanzie sui finanziamenti fino a 100.000 euro dagli attuali 25.000 è la proposta del direttore generale dell'ABI Giovanni Sabatini per semplificare le modalità di accesso al fondo vista l'emergenza in corso. Uno shock paragonabile a quello di una guerra, dice Sabatini, che in audizione alla Camera ribadisce: per l'ok ai finanziamenti fino a 25.000 euro basta l'autocertificazione. È necessario che imprese e famiglie possano ricevere rapidamente la liquidità per superare questa crisi. Per ridurre i tempi dell'istruttoria occorre tutelare sotto il profilo penale l'attività di erogazione del credito, spiega l'associazione bancaria. Ieri, secondo giorno, il numero delle domande dei prestiti sotto i 25.000 euro è raddoppiato e alcune banche hanno iniziato a erogare. Partita anche Garanzia Italia, ovvero i prestiti garantiti dallo Stato tramite la SACE alle aziende di più grandi dimensioni. Livia Zancanero, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E come sappiamo, domani c'è un Consiglio europeo, sale l'attesa per questo vertice, per quanto sia già stato anticipato che non sarà definitivo neanche per quanto riguarda il Recovery Fund, ma in ogni caso sale l'attesa per questo appuntamento, mentre anche i deputati tedeschi manifestano sostegno all'Italia. Aumenta il pressing da più parti affinché il vertice europeo di domani per gli aiuti all'economia sia risolutivo, a partire da una manifestazione promossa da deputati tedeschi per esprimere solidarietà all'Italia davanti all'ambasciata italiana, dove il deputato tedesco dell'SPD Martin Schulz ha affermato la Merkel è sulla strada giusta e il premier spagnolo Sanchez esorta indispensabile un primo consenso al Consiglio europeo. E intanto arriva la notizia di un mini vertice a 5 lunedì scorso in Italia, Francia, Spagna, Germania, Olanda, che sarebbe stato convocato dal presidente del Consiglio europeo e questa volta è andato a segno per allentare le tensioni in vista del summit al 27 di domani. E lo stesso Eric Mamer, portavoce della Commissione europea, sottolinea questa attesa nel punto stampa di poco fa dopo la riunione dei commissari europei e dei ministri per gli affari europei sugli impatti del coronavirus. Il collegio dice guarda l'incontro di domani basato su una dettagliata analisi economica e su un recovery plan. E proprio su questo si lavora, mentre il fronte del sud preme per avere per giugno un accordo definitivo anche sul bilancio europeo e il fondo operativo da luglio. Anna Marino, Radio 24. Il Sole 24 Ore. Abbiamo parlato poco fa dell'audizione del direttore generale dell'ABI sulla questione della liquidità per le aziende, audizioni parlamentari, anche in questo caso sono question time per il ministro dell'interno Lamorgese, che ha parlato di un solo caso di migrante positivo al coronavirus tra quelli sbarcati dall'inizio della crisi a oggi. Sentiamo. L'ipotesi è quella di regolarizzare lavoratori oggi in nero per impiegarli subito nelle campagne stagionali di raccolta in agricoltura. Di solito arrivano decine di migliaia di stagionali dall'Europa dell'Est, oggi questo canale è bloccato. Si pensa dunque all'emersione di lavoro nero e alla regolarizzazione di migranti, una quota di quei 600.000 invisibili che neppure Salvini ministro è riuscito a espellere dall'Italia. La conferma arriva dal ministro dell'interno Luciana Lamorgese in Senato. La questione nasce dall'esigenza di trovare una soluzione specifica ai problemi che stanno emergendo nel settore dell'agricoltura, come in quello della pesca, al fine di sopperire alle carenze di lavoratori in quegli ambiti e che può rappresentare anche un elemento di maggiore garanzia della sicurezza pubblica. Lamorgese ha poi assicurato che non esiste un rischio Covid legato ai migranti. C'è finora un solo positivo, un ragazzo egiziano arrivato con uno sbarco autonomo a Lampedusa. E comunque chiunque sbarchi viene sottoposto a quarantena sorvegliata di almeno 14 giorni. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Le mascherine, dicevamo in apertura, ma anche il distanziamento sociale fino a 2 metri resteranno sicuramente in campo nella fase 2 fino, ha detto ieri Conte, all'individuazione o di una cura o di un vaccino. Ma quante mascherine servono in questo momento al nostro paese? Fino a 35 milioni al giorno, quando il lockdown calerà e le persone torneranno a lavorare. E quali caratteristiche devono avere queste mascherine per essere riutilizzabili? Sentiamo. Da 300 milioni a circa 1 miliardo di mascherine chirurgiche al mese. Sarebbero questi, secondo gli esperti, i possibili fabbisogni nell'Italia della fase 2, quando aziende ed esercizi commerciali riapriranno e le mascherine saranno obbligatorie per tutti. Se la giungla dei prezzi sarà superata per decreto con un prezzo calmierato dal governo a 90 centesimi, resta da risolvere il nodo dello smaltimento di circa 300 tonnellate di rifiuti quotidiani. Le prime indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità prevedono lo smaltimento tra i rifiuti indifferenziati, destinati quindi a discariche e inceneritori, ma il rischio già sotto i nostri occhi è che una gran quantità di mascherine insieme ai guanti monouso finiscano dispersi nell'ambiente. L'unica alternativa sono allora le mascherine riutilizzabili. Paolo D'Ancona, epidemiologo dell'Istituto Superiore di Sanità. L'attenzione dovrebbe essere sul fatto che la mascherina sia possibilmente spessa, che quindi offra più di uno strato e che venga lavata regolarmente. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Allarghiamo lo sguardo a livello globale. Continua a crescere il numero di casi di coronavirus attivi nel mondo, quasi 1.700.000. Sentiamo. Sono oltre 110.000 i morti di coronavirus in Europa e il Papa oggi ha esortato proprio il vecchio continente affinché riesca ad avere l'unità fraterna che hanno sognato i padri fondatori per fronteggiare la difficile situazione. Mentre in Spagna sono 435 le nuove vittime, con un leggero incremento, nel Regno Unito i morti potrebbero essere il 40% in più rispetto a quelli ufficiali. Tra il 4 e il 10 aprile, infatti, a Londra una persona su due sarebbe morta proprio a causa del coronavirus. Dall'ONU l'auspicio di misure urgenti per prevenire in 30 paesi in via di sviluppo gravi carestie. Negli Stati Uniti lo stop all'immigrazione voluto dal presidente Trump durerà 60 giorni, 2.700 i nuovi morti nelle ultime ore. In Cina, ad Harbin, città da 10 milioni di abitanti, rafforzato il lockdown parziale per contenere i casi di ritorno. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E con la cronaca torniamo in Italia, perché c'è stata una importante operazione che ha portato alla confisca del patrimonio del clan degli Spada ad Ostia. La Guardia di Finanza di Roma ha confiscato in via definitiva al clan degli Spada di Ostia beni mobili e immobili per un valore complessivo di 18 milioni di euro. Il provvedimento è stato emesso dalla sezione misure prevenzione del Tribunale Capitolino. Tra i beni già posti sotto sequestro nell'ottobre del 2018, anche la palestra, situata sempre ad Ostia, dove Roberto Spada nel novembre dell'anno prima aggredì il giornalista della RAI Daniele Piervincenzi. L'indagine, condotta dal GICO, del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma, ha consentito di ricostruire tutto il patrimonio accumulato illecitamente nel corso degli anni dai principali esponenti del clan Spada attraverso estorsioni, usura e traffico di droga. Gli accertamenti hanno riguardato una cinquantina di persone tra familiari e soggetti terzi che hanno fatto da prestanome per i vertici del clan. Nel complesso è stato confiscato gran parte del patrimonio aziendale di 19 società, 2 ditte individuali e 6 associazioni sportive culturali, quasi tutte ad Ostia, oltre a 2 immobili, 13 automezzi e disponibilità finanziaria su rapporti bancari e postali. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il 2019 è stato l'anno più caldo mai registrato per l'Europa, con temperature medie di quasi 2 gradi al di sopra di quelle della seconda metà del XIX secolo. Così il rapporto sullo stato del clima in Europa di Copernicus, il programma europeo di osservazione della Terra, diffuso in occasione oggi del 50esima giornata mondiale della Terra. Mesi bollenti, ricorda questo bollettino, a febbraio, a giugno, ma anche siccità, piogge intense, scioglimento dei ghiacciai in Groenlandia. Continueremo a parlarne nella seconda parte di Effetto Giorno. Per quanto riguarda invece, torniamo alla pagina sul coronavirus, la fase 2, il ministro dello sport Spadafora ha detto che il governo è intenzionato a riaprire prima gli allenamenti e poi i campionati, ma in modo graduale. Sentiamo. Dobbiamo riaprire perché lo sport è importante soprattutto non solo come valore economico ma come valore sociale, ma lo dobbiamo fare nel rispetto assoluto della salute di tutti, quindi gradualmente potremmo pensare di riaprire sicuramente tutta la parte che riguarda gli allenamenti. Per quello che riguarda i campionati e per quello che riguarderà l'attività motoria all'aperta, tanto richiesta dai nostri cittadini, valuteremo insieme al Comitato Tecnico Scientifico e alla Protezione Civile prima del 4 maggio se saremo o meno in grado di riaprire. Cosa. 13 e 14 minuti, facciamo un break, torniamo tra poco con tutte le altre notizie, ripartiremo dalle novità incoraggianti che arrivano da Mantova, dalle cure utilizzando il plasma dei pazienti guariti, novità dunque molto interessanti e incoraggianti, ne parleremo tra poco. 349-238-6666 per i vostri messaggi, ci trovate anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno, tra poco. Promo 24. IG, broker leader nel trading online, ha il piacere di invitarti all'appuntamento dell'anno in live streaming con uno dei più grandi trader al mondo, Larry Williams. Partecipa online il 9 maggio dalle 10 alle 15. Collegati alla diretta video per scoprire le regole d'oro del trading e come gestire al meglio i rischi e le opportunità sui mercati finanziari. Registrati su IG.com. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fare trading comporta dei rischi. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. Distanza fino a 2 metri, mascherine nei negozi, sia passeggiate e parchi per i bambini, le ipotesi per la fase 2, la decisione entro il fine settimana. Per lo sport, Spadafora promette di riaprire prima gli allenamenti e poi i campionati. Il plasma dei pazienti guariti come terapia per il Covid dal Carlo Poma di Mantova, i risultati sono incoraggianti, effetto giorno, il professor De Donno. Ostia, beni per 18 milioni di euro derivati da estorsioni e droga, confiscati al clan degli Spada. Il 2019 è l'anno più caldo di sempre in Europa, oggi giornata mondiale della Terra, il Papa, il pianeta è depredato, a rischio le nostre vite. Minuti, questi titoli di notizie di oggi, cari ascoltatori, di nuovo in diretta con effetto giorno. Allora, come abbiamo detto già nei giorni scorsi, manteniamo fede, almeno una volta un appuntamento al giorno lo dedichiamo ad un'intervista, un approfondimento, una notizia, insomma, a qualcosa di positivo, qualcosa di costruttivo che si sta cercando di realizzare fin da subito in questa emergenza coronavirus. E lo facciamo con il professor Giuseppe De Donno, direttore di pneumologia e terapia intensiva respiratoria al Carlo Poma di Mantova. Buongiorno. Buongiorno a voi. E grazie per essere con noi, De Donno. Allora, facciamo il punto sulle possibili terapie per quanto riguarda il coronavirus. Sappiamo che fino ad oggi sono state fatte vari tentativi, non esiste una terapia specifica, forse addirittura la prima indicazione terapeutica davvero precisa potrebbe essere questa, il plasma delle persone guarite, che viene utilizzato, adesso lei ci spiegherà come, professore, con una terapia che non è nuova, perché già in passato è stata utilizzata anche per altre patologie, ma insomma i risultati, lei ha già avuto modo di dire, sono molto incoraggianti. Ora io le chiedo, con parole abbastanza semplici, se possibile, di spiegarci come lei sta utilizzando questa terapia, come funziona. Non funziona la linea telefonica, è caduta, ecco, benissimo. Abbiamo un problema con la linea telefonica, vediamo se riusciamo a ristabilirla immediatamente con il professor De Donno, che sicuramente si trova tra l'altro a lavoro e ha strappato qualche minuto per poter essere in diretta con noi per commentare l'avvio di questa terapia che già da un po' si sta facendo. Il Veneto, vi ricordate anche in una intervista ai nostri microfoni con il presidente del Veneto Luca Zaia, è stato tra i primi ad annunciarlo, adesso lo stanno facendo a Mantova. Con noi l'abbiamo ripreso, De Donno, buongiorno ancora. Mi qua, ecco. Che problemi della tecnologia. Allora, le chiedevo se riesce a spiegarci con parole abbastanza semplici, se possibile, come funziona la terapia basata sul plasma dei pazienti guariti che lei sta utilizzando nel suo ospedale. Certo, allora, come ha detto giustamente lei, questa metodologia non è nuova, era già stata provata ai tempi della Spagnola con qualche risultato, era stata provata durante il SARS invece con scarsi risultati. Noi abbiamo deciso, vista la somiglianza di coronavirus col virus della Spagnola, di proporre questo tipo di protocollo sperimentale che è stato appunto accettato dai comitati etici, e di conseguenza siamo partiti con questa sperimentazione che si sta concludendo per quanto riguarda la fase 1, che prevede circa l'arruolamento di 50 pazienti. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo convocato i pazienti guariti da polmonite con o senza insufficienza respiratoria, ma sicuramente ammalati di coronavirus, quindi diagnosticati attraverso il tampone, e dopo due tamponi negativi abbiamo considerato guariti questi pazienti e li abbiamo sottoposti a donazione di plasma. ovvero i pazienti hanno donato il sangue, gli è stata restituita la parte corpuscolata, quindi globuli bianchi, globuli rossi e piastrine sono stati rimessi ai donatori e noi abbiamo trattenuto il plasma. Questo plasma contiene anticorpi, soprattutto IgG, quindi immunoglobuline di classe G, contro il coronavirus. E la nostra idea era quella che questo tipo di plasma iperimmuno potesse essere una sorta di vaccino potenziato, cioè una sostanza che andasse a combattere in modo rapido ed efficace il coronavirus. E abbiamo quindi iniziato a somministrare questo plasma iperimmune nei pazienti con gravi forme di insufficienza respiratoria ed effettivamente i miglioramenti sono stati immediati. I pazienti hanno iniziato a migliorare, siamo stati in grado di svezzare questi pazienti dalla ventilazione meccanica in modo più rapido. Questo è valso sia per quelli che sono in ventilazione meccanica non invasiva, ma anche per i pazienti intubati. Abbiamo avuto 4 pazienti intubati che sono stati estubati dopo la seconda somministrazione di plasma. Quindi questo ci ha permesso di aumentare il turnover nelle nostre terapie intensive respiratorie, di conseguenza poter ricoverare molti più pazienti. E, come sapete, anche ci siamo spinti un po' più in là rispetto a quello che era il protocollo originale, infatti abbiamo trattato anche una donna gravida alla 24esima settimana, la donna è guarita completamente in 4ª giornata dalla somministrazione della seconda sacca di plasma e abbiamo avuto un miglioramento anche della cinestesica, cioè della performance ecografica della bambina. Del feto, insomma, di 24 settimane. Ecco, quindi risultati questo... veramente interessanti, professor De Donno. Interessanti. Noi oggi concludiamo, sì, diciamo, la prima fase, sì, di sperimentazione, per cui stiamo completando la rielaborazione statistica. Quello che posso anticipare è che dalle nostre sensazioni che gli outcome che ci eravamo prefissati sono stati raggiunti tutti. Ma la cosa importante è che su 50 pazienti nessuno è stato intubato, se non i 4 che erano intubati che sono stati estubati. E la mortalità è pari a 0, quindi già questo è un risultato eccezionale, ecco. Ecco, quindi risultati che lei definisce eccezionali, risultati che devono ancora però essere confermati, se abbiamo capito bene, dal termine di questo ciclo, diciamo, che è un ciclo sperimentale che voi state facendo. Io le chiedo però, così proprio per saltare naturalmente alle conclusioni, so che per voi non è semplice, però per chi ascolta invece l'attesa è quella. Quanto questa terapia, diciamo, è complicata, quanto è estendibile? Complicata nel senso ricavare questo plasma con le caratteristiche che avete fatto voi, quanto, certo, è complicato, certo, farlo, se lo possono fare tutti gli ospedali italiani, alcuni ospedali, e quanto tempo ci vuole perché questa terapia possa diventare un protocollo a sua volta, professor? Allora, io penso che dai dati che noi andremo a pubblicare da qui a poche ore non vi sarà più bisogno di un protocollo sperimentale per poter utilizzare il plasma, ecco. Io l'ho detto anche più volte quando mi intervistano, è un peccato mortale non veniale non utilizzare il plasma iperimmune. Cioè, scusi, questo è un punto molto importante. Lei sta dicendo, perché fino a questo momento, trattandosi di cure nuove, alcune sperimentali, per quanto riguarda i farmaci, tante volte sono farmaci utilizzati al di fuori di quelle che sono le linee guida delle case farmaceutiche. Qua parliamo di una cura prodotta proprio all'interno dell'ospedale. Lei sta dicendo che invece cioè è già utilizzabile da parte anche di altri ospedali al di fuori di un protocollo specifico? Allora, ovviamente quello che intendevo dire è che noi andremo a pubblicare, sì, da qui a poche ore i dati. Una volta che sono pubblicati e che noi abbiamo dimostrato che il plasma iperimmune è efficace, come penso proprio di potermi sbilanciare, e allora da qui in poi si potrà utilizzare. Il problema, diciamo, le limitanti sono due però. La prima limitante sono i donatori. E bisogna avere una quantità di donatori che guariti, quindi con un plasma efficace che appunto possano, diciamo, soddisfare le esigenze dei centri Covid. Non tutti i donatori sono. Sì. Questa è una cosa molto importante, no? Perché la seconda limitante è che non tutti i donatori, cioè non tutti i guariti, hanno un plasma efficace. Adesso lo spiego in parole povere. Sì. Noi facciamo un test che si chiama test di neutralizzazione prima di far donare i nostri donatori. Il test di neutralizzazione che cos'è? Si prende una piccola parte di plasma dei donatori e lo si mette a contatto con le cellule infettate dal coronavirus. Se queste cellule vengono distrutte dal plasma, cioè le immunoglobuline del donatore distruggono queste cellule, vuol dire che questo plasma è efficace. Altrimenti esatto, e si stabilisce una percentuale di efficacia. Se questo non avviene, allora diciamo che i donatori non sono idonei per poter donare il plasma. Ecco, quindi c'è già una selezione a valle. E, la terza limitante è la quantità di donatori, no? È per quello che noi abbiamo lanciato una campagna social importantissima, una campagna mediatica importantissima, perché a Mantova stanno arrivando anche molti donatori, di questo ne siamo veramente grati, da quelle città che non hanno in atto il protocollo sperimentale. E quindi lo stanno fornendo a voi, che invece lo state realizzando. Donatori, sì. Da Crema, da Cremona, da Brescia, da Bergamo, da Lodi. Oggi mi hanno telefonato dei donatori calabresi che vorrebbero venire a donare il plasma. Bene, molto, molto, molto positivo questo aspetto. Professor De Donno, l'ultima cosa che gli voglio chiedere è questa. Lei comunque sta curando i pazienti, credo dall'inizio, insomma, di questa epidemia. Le voglio chiedere se ha notato anche un cambiamento più in generale, no? nel tipo di terapia, nella cura, perché assistiamo ad una diminuzione di ricoverati in terapia intensiva, tanti pazienti sono ricoverati ma con sintomi meno gravi. Si riesce a intervenire in maniera più precoce anche nei casi gravi intermedi, si riesce ad evitare la terapia intensiva? Sta avvenendo un po' questo o è un'impressione? No, è un'impressione corretta. E diciamo che rispetto all'inizio ovviamente abbiamo preso un po' di più di misura rispetto al coronavirus, e questo è anche grazie ai medici di famiglia che hanno iniziato precocemente a trattare i pazienti a domicilio e quindi hanno, diciamo così, fatto in modo che, iniziando un trattamento precoce con l'idrossiclorochina e adesso anche con gli antiretrovirali, molti meno pazienti arrivano in ospedale. E devo anche dire però che i pazienti che arrivano in ospedale sono pazienti che hanno rispetto all'inizio una maggior gravità. E allora perché non abbiamo le rianimazioni piene? Non abbiamo le rianimazioni piene perché come quantità complessiva i pazienti sono ridotti, ma i medici delle unità Covid o delle unità di terapia intensiva respiratoria come la mia hanno imparato a gestire talmente bene questi pazienti che non hanno più bisogno del supporto della rianimazione. E anche questa è una buona notizia. Esatto, dovuta al vostro lavoro. Io la ringrazio, professor De Donno, grazie per essere stato con noi, direttore di pneumologia del terapia intensiva respiratoria del Carlo Poma di Mantova. Grazie, in bocca al lupo per le vostre ricerche, per i vostri pazienti, per tutti noi, e speriamo di sentirci magari presto con degli ulteriori sviluppi di questa importante terapia. Davvero buone notizie da Mantova. Adesso chiudiamo questa parte con un altro aspetto di questa situazione nella quale ci troviamo a vivere da mesi ormai, e che riguarda come si vive all'interno delle nostre mura domestiche, guardando molta televisione ovviamente, e quindi per tutte le piattaforme sono affari importanti, in particolare Netflix, numeri da record. Sentiamo Marta Cagnola. Nell'emergenza coronavirus Netflix fa il pieno di abbonati. Con miliardi di persone costrette a passare il tempo libero dentro casa, il colosso della TV in streaming chiude il primo trimestre con un balzo degli abbonati. Sono saliti di 15,8 milioni, il doppio delle attese. Si tratta di un balzo del 22,8% dai quasi 149 milioni di abbonati di un anno fa e oltre il doppio di quanto aveva stimato in precedenza. Netflix stima di aggiungere altri 7 milioni e mezzo di abbonati il prossimo trimestre, ma il CEO Reed Hastings, in una lettera agli investitori, avverte che l'incertezza è elevata e che molti di coloro che si sono abbonati in marzo l'avrebbero probabilmente fatto nel corso dell'anno. Ma finiranno i prodotti nuovi con i set fermi? Secondo Hastings, Netflix ha una library più forte di quella dei servizi concorrenti e intanto acquista film che non usciranno al cinema, come Enola Holmes con Millie Bobby Brown e Lovebirds con la regista e il protagonista di Big Sick. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13:30 in punto, piccolo break, informazioni di borsa, poi torniamo con i titoli e tutte le altre notizie. A tra poco. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Effetto giorno. Ecco le notizie di oggi: distanza fino a 2 metri, mascherine nei negozi, sia passeggiate e parchi per bambini, le ipotesi per la fase 2 in campo, decisioni in arrivo entro il fine settimana. Dal prezzo calmierato alle caratteristiche per poterle riutilizzare fino al loro smaltimento, i problemi aperti per le mascherine non mancano però, secondo gli esperti. Sport: il ministro Spadafora promette riaprire prima gli allenamenti, poi i campionati, in modo graduale. Ostia, beni per 18 milioni di euro derivati da estorsioni e droga confiscati al clan degli Spada. Il 2019 è stato l'anno più caldo di sempre in Europa. Oggi si celebra la giornata mondiale della Terra. Il Papa dice: il pianeta è depredato, a rischio la nostra vita. Eccoci qua, di nuovo in diretta, 13.34. Cari ascoltatori, avete appena sentito i titoli principali delle notizie di oggi, i vostri messaggi al 349-238-6666 e anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno. Commenti per quanto riguarda l'intervista con il professor De Donno di Mantova, del Carlo Poma di Mantova, e la sua sperimentazione per una cura al Covid basata sul plasma dei pazienti guariti. Messaggi ovviamente positivi, incoraggianti. Ci sono anche delle domande a cui non sono in grado di rispondere, ve le giro così. Chiede un ascoltatore: donare il sangue può essere utile? Io credo che donare il sangue, anzi sicuramente donare il sangue è sempre utile, poi in questo caso non so dire se possa essere utile, se non nel caso in cui si sia pazienti guariti dal coronavirus, e allora donare il sangue e il plasma è fondamentale. Quanto dura il plasma, chiede un altro ascoltatore? Non lo so, è una domanda che avrei potuto fare prima al professor De Donno, ma prendo l'impegno a risentirlo tra una decina di giorni in questo spazio, perché sicuramente è una delle notizie più incoraggianti e più positive per quanto riguarda la terapia del Covid che abbiamo visto in queste settimane. È il momento del punto del vice direttore del Sole. Il punto di Alberto Orioli. Stasera il Consiglio dei Ministri darà il via libera alla variazione del deficit, che salirà di 55 miliardi e diventerà almeno pari al 10% del PIL. Il debito crescerà intorno al 150% e il prodotto interno lordo si stima in calo di almeno 10 punti. Fare riferimenti all'economia di guerra non è retorico. Il dato di oggi inciderà sullo stato dei conti pubblici per i prossimi 20 anni e forse più. Alla enorme massa di debito pubblico l'Italia sta affiancando una gigantesca massa di debito privato, con i famosi prestiti a garanzia pubblica, per consentire alle imprese di sopravvivere all'emorragia di liquidità. E alla lunga non sarà un bene. Sono mosse d'emergenza, di pronto soccorso, forse inevitabili, ma è il momento di ragionare se non convenga destinare risorse importanti ad aiuti a fondo perduto piuttosto che a prestiti, che potrebbero minare la struttura finanziaria delle imprese e mettere a rischio le banche se aumentassero le sofferenze. Non è tardi per ragionare su come si dovrà gestire il futuro, a partire da questa considerazione. Non potremo permetterci, una volta finita l'emergenza, di tornare il paese anello debole dell'Eurozona, con l'angoscia continua del rischio spread. È per questo che diventa importante negoziare al meglio una forma di debito condiviso che il Recovery Fund, di cui si parlerà domani al Consiglio europeo, sembra proprio un ottimo prologo. Parliamo della 50ª giornata mondiale della Terra, promossa dalle Nazioni Unite, per la 50ª volta appunto. Si tratta di una serie di iniziative per sottolineare la necessità della conservazione delle risorse naturali del nostro pianeta, anche con tutta una serie di elementi educativi ed informativi che fanno parte di questo genere di giornate. Data la situazione speciale nella quale ci troviamo a vivere, non ci sono eventi pubblici, eventi di prossimità, ma saranno tutte una serie di eventi principalmente online e mediatici. Tra le tante iniziative, noi abbiamo scelto di parlare di una che riguarda il ciclo delle materie, dei rifiuti e dell'energia, e lo vogliamo fare con Rossano Ercolini, premio Nobel, diciamo così, per l'ambiente 2013, il Goldman Prize, presidente di Zero Waste Europa, la rete per l'economia circolare per rifiuti zero in Europa, che conoscete bene dai nostri microfoni, l'abbiamo sentito più volte, ma credo che ci sia un problema con il collegamento. Non c'è, regia? Mi date un cenno? C'è un problema con il collegamento. Allora, vediamo se anche in questo caso, oggi siamo fortunati con le linee telefoniche, abbiamo avuto problema prima con De Donno, abbiamo un problema adesso con Rossano Ercolini. Vi dico, tra le iniziative che ci sono, per esempio con l'hashtag Abbracciamola, proposto da Lega Ambiente, potete condividere le vostre foto sui social, come si fa in questi casi, le vostre foto della terra, di voi con la terra, del vostro punto di vista per quanto riguarda la possibilità di difenderla. Poi c'è anche la maratona televisiva One People One Planet, trasmessa sul canale streaming di Rai Play, con un palinsesto di 12 ore che va in onda dalle 8 di stamattina fino alle 20 di questa sera. Vediamo se abbiamo recuperato il collegamento con Rossano Ercolini. Sì, eccolo. Rossano, buongiorno. Buongiorno. Benvenuto. Buongiorno. Grazie Alessio. Allora, sono qui in mezzo alla maratona. In mezzo alla maratona. Allora, raccontaci in che modo voi in particolare state celebrando questa giornata per la Terra. So che avete fatto anche una lettera, avete scritto una lettera al Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, al Presidente del Consiglio Conte, se vuoi partire da questo appello che voi fate in questo momento, che è un momento anche particolare nel quale stiamo parlando, ma nel quale comunque continuiamo a preoccuparci e a cercare di fare qualcosa per salvare il pianeta. Sì, stiamo facendo tante cose, vitalità, quindi è un antivirus contro il virus, perché in realtà dobbiamo essere custodi del nostro pianeta, non padroni, abbandonare vecchi atteggiamenti. Sì, come dicevi, abbiamo scritto una lettera alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, anche al Presidente del Parlamento Europeo, Davide Sassoli, in cui chiediamo di non tornare indietro. Il Covid-19 è un grande dramma, anche sociale, e siamo solidali a tutti i ceti sociali, alle persone più vulnerabili che sono state colpite, alle piccole attività imprenditoriali, però questo non deve essere una ragione per tornare indietro, anzi. Crisi in linguaggio orientale significa opportunità, rigenerare. Non possiamo più andare avanti così, a essere aggressivi nei confronti della natura. Facevo una brevissima riflessione: le nostre città sono vuote, bellissime ma tristi. Prima erano belle, noi forse anche vitali, però erano piene di inquinamento, e ecco, dobbiamo trovare un equilibrio. Alla von der Leyen abbiamo detto mettiamo a disposizione i budget, come l'Europa e anche il governo italiano a parole hanno più volte rimarcato, per favore non torniamo indietro dalla transizione ecologica, il rispetto dell'ambiente prima di tutto. C'è un modo per, naturalmente fino a due mesi fa pensavamo che questa, la transizione ecologica, il Green New Deal annunciato dalla stessa von der Leyen, fossero in qualche modo la nostra prima missione, no? Almeno per chi è sensibilizzato da questo punto di vista. Ma oggi, con quest'altre paure negli occhi, con quest'altre angosce negli occhi che sono l'emergenza coronavirus, in che modo invece, secondo voi, queste due emergenze sono legate? Le risposte possono convivere anziché divergere? Ma secondo me sono ancora più legate, non solo dal punto di vista ideale, ma ricordiamoci che l'Europa aveva fatto la svolta a favore dell'economia circolare non per motivi ecologici o di sostenibilità ambientale, ma perché gli imprenditori hanno difficoltà in Europa a reperire le materie prime. E allora la raccolta differenziata, perché raccogliamo la carta, raccogliamo i metalli, raccogliamo il vetro, se separiamo non ci sono rifiuti ma ci sono risorse. Quindi se continuiamo con lo stesso approccio, che è un approccio simbolico, cioè guardare il futuro con gli occhi dei bambini, ci arrivano contributi toccanti, tenerissimi, mi viene da piangere, non lo dico in modo retorico, ecco, ma lo possiamo guardare anche con gli occhi degli imprenditori e del lavoro, che noi vogliamo solidarietà sociale, tutela dei più deboli, e lavoro sono connessi, perché se facciamo la raccolta differenziata porta a porta, si dà un posto di lavoro ogni 1000 utenze servite. E nel mio piccolo territorio della Piana di Lucca, oltre 160 posti di lavoro dalle raccolte differenziate e dalle buone pratiche rifiuti zero. Quindi è possibile conciliare, anzi, anche per questa ripartenza dove c'è bisogno comunque di rilanciare anche l'economia e l'occupazione, voi dite che questo può essere l'occasione per tenere insieme. A proposito, queste cose, c'è anche una iniziativa che ho letto, che voi state lanciando e che entra proprio anche nel merito della situazione che stiamo vivendo e che riguarda il tema delle mascherine, perché ne abbiamo parlato nella prima parte di Effetto Giorno, se ne produrranno tantissime, molte non sono, sono riutilizzabili, però molte sono usa e getta e non sono riciclabili, il materiale è riciclabile. Voi, se ho capito bene, fate una proposta? Sì, noi abbiamo stamattina nel corso della maratona ho ricevuto i titolari della grafica 77, tra l'altro di Massarosa, la progettazione è un procedimento attraverso gli origami, no? L'arte orientale di lavorare la carta. Abbiamo promosso la mascherina in un misto prevalente di cellulosa e di cotone, che per quanto riguarda la spesa, le attività quotidiane, può essere assolutamente alternativa alle mascherine che vediamo in giro, cioè di tessuto non tessuto, il cosiddetto e maledetto TNT, perché non che è non riciclabile. Può essere riciclabile. Ecco, invece queste mascherine che possono essere, che saranno prodotte in milioni di pezzi, sono a disposizione di tutti, quindi tutti i vostri ascoltatori li invito a connettersi con noi, eventualmente se ci sono singoli o sindaci o enti, chiaramente non può essere usata all'interno degli spazi sanitari, no, certo, e anche all'interno del lavoro. Si tratta di una di quelle mascherine per un uso, diciamo, quotidiano per le persone che non sono in prima linea, quelle che utilizziamo per proteggere gli altri, non noi stessi. Rossano Ercolini, grazie per essere stato con noi, il presidente di Zero Waste Europe, per aver condiviso con noi gli eventi di oggi per questa giornata mondiale della Terra. 13:45, facciamo un salto veloce come sempre a quest'ora anche per quanto riguarda la giornata sportiva. Che ciao Carlo, ciao Alessio, ciao oggi a tutti. Un piccolo brivido per tutti è arrivato quando Spadafora ha detto, finalmente ha usato il verbo ripartire, non ho capito bene come l'ha declinato, però guarda, insomma, l'ha declinato con estrema cautela, secondo alcuni probabilmente troppa cautela, sì. Ripresa graduale, individuale, eccetera, però non è ancora chiara quale sarà la strategia, soprattutto non sono ancora chiari tempistiche e modalità. È in corso un vertice di Spadafora con i rappresentanti di tutte le componenti del calcio, quindi presidente di leghe, dei medici, degli arbitri e quant'altro, arbitri, certo. E quant'altro. E noi avremo tra un quarto d'ora il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, che quindi useremo come cronista, ci racconterà quali cosa sono sta le, succedendo. Le ultime novità. Sì. Molto bene, grazie Carlo. Allora vi ritroviamo con questo anche, diciamo, cronista d'eccezione dopo il giro delle 14 in tutti i convocati. Piccolo break, torniamo tra un attimo con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.